100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Popolo di investitori propensi al rischio oppure popolo di cassettisti e di formiche che mettono i soldi in banca? A giudicare dalla relazione annuale del presidente della Consob, Giuseppe Vegas, qualcosa sta cambiando. Quella propensione al rischio che si è vista su tutte le piazze finanziarie del mondo e che genera quelle paure di una bolla finanziaria sta contagiando anche gli italiani. Secondo la relazione, infatti, la quota di famiglie italiane che investono in borsa o prodotti finanziari è passata al 48% rispetto al 41% del 2013, quindi un paese più maturo finanziariamente non si può dire, poiché la conoscenza e il livello di educazione finanziaria delle nostre famiglie è ancora molto basso. Addirittura, dice la Consob, non tutti sanno che cos'è l'inflazione. Ma al di là di questi aspetti di colore, un dato rimane. Per il presidente della Consob, la vera emergenza italiana non è la vigilanza su come si investe in borsa o sui rischi di illeciti, ma nello stimolare la nascita di un vero mercato dei capitali con grandi investitori internazionali e soprattutto liberare risorse per le piccole e medie imprese e per le famiglie. I denari del quantitative easing infatti stanno andando un po' troppo verso le borse e troppo poco verso l'economia reale. La sfida dunque qual è? Quella di far sì che si controlli di più dove va il denaro, ma soprattutto avere in Italia un quadro normativo di regole e soprattutto un'Europa molto più attenta ad evitare distorsioni dei mercati nazionali. Ci si riuscirà? Questa è la sfida sicuramente del 2015 ed è quanto potremo sapere soltanto nel 2016, ovvero a crisi greca passata e, speriamo, ad economia ripartita. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Dove non arriva lo Stato, arrivano le imprese. Quando si parla di scuole ed educazione superiore, i problemi sono comuni a tutti i paesi, grandi o piccoli che siano. Studiare costa e le possibilità di una laurea non è alla portata di tutti, tanto che per colmare il gap tra necessità di lavoratori qualificati e disponibilità effettiva di laureati, molte imprese americane, soprattutto le grandi multinazionali, hanno cominciato a pagare i neoassunti per terminare gli studi. Ma non solo, c'è anche chi paga la laurea ai dipendenti non per farli restare a lavorare, ma per garantirgli un futuro migliore, ed è proprio così. È il caso ad esempio di Starbucks, il gigante americano delle caffetterie, che dopo aver pagato il corso di laurea già a 2.200 baristi che ne avevano fatto la richiesta, ha deciso di estendere il programma ad altri 2.200. Questa iniziativa piace talmente tanto che degli oltre 7.000 assunti il mese scorso, almeno 3.500 hanno dichiarato apertamente di averlo fatto proprio per completare gli studi. Morale, il lavoratore studia, guadagna, ma anche il datore di lavoro ci guadagna, con un dipendente più felice e motivato. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.